Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. La prima cosa che uno capisce quando si occupa di gente che cambia vita è che quelli che mollano tutti all'improvviso, quelli che escono a comprare le sigarette e non tornano più, quelli che fanno una follia e spariscono e cambiano vita da un giorno all'altro, praticamente non esistono. Se esistono sono solo una minoranza. Quelli che lo fanno davvero ci mettono mesi, anni, una vita a progettare, a cercare di capire, a fare i conti, a rifarli, a verificare, a prepararsi. Insomma, c'è tutta una fase di studio e di progetto che è una cosa fondamentale e che fa la differenza tra quelli che lo dicono e quelli che poi lo faranno. Ecco, noi oggi andiamo a cercare persone che stanno in quella fase lì. Di solito vi raccontiamo storie di gente che ha cambiato vita, oggi raccontiamo e cerchiamo storie di chi la vita la sta per cambiare, che magari ha già deciso la data, magari ha già comprato il biglietto, magari dice mi manca tanto così e parto. Ecco, oggi parliamo di voi. 800 24 00 24. Ho deciso di partire. Ma dai. Ora non mi fare ma dai con quella faccia perché mi fai nervoso. Stavolta sento che sto a fare sul serio. Te invece che stai qua a quest'ora che cazzo hai fatto? Te lo posso dire io che cosa hai fatto? Hai scazzato di nuovo con Livia? Non la sopporto più. È una rompicazzo, te l'ho sempre detto. E tu sei infelice. E non provare a dirmi che sei felice perché rido che mi viene un ictus. No, bello mio, te non sei felice neanche per il cazzo. E c'hai l'80% dei motivi per mollare tutto e venire con me. E ci vieni pure te. Dove? Ma sta buono, ma ti sei visto? Te volevi lavorare a Greenpeace, sei finito a piratare CD-ROM e a scoparti ogni sera una diversa. Che ti vuoi ritrovare a 50 anni patetico e represso con la vita desertificata, col riporto? Io lo so che sono anni che lo dico, ma io qui sto sclerando di brutto. Io non ce la faccio più. Io porco cazzo svalvolo davvero se resto. O partiamo adesso o non partiamo mai più. Non abbiamo più 20 anni, ma per fortuna di Dio non ce l'abbiamo ancora 40. Che a 40 la vita è già bella che andate, l'abbiamo sempre detto. Sto chiedendo soltanto di partire. Venite con me. Ecco, con il classico tono mucciniano, bello tranquillo, pacato, senza nemmeno una parolaccia, senza nemmeno un momento di tensione, c'era questo dialogo nel film L'ultimo bacio in cui i protagonisti si dicevano partiamo, andiamo, è una vita che lo diciamo, dobbiamo fare, la vita non va bene. Insomma, quelle cose che ci diciamo un po' tutti e che poi non sempre sfociano in un vero cambio di vita. Benvenuti, questa è Radio 24, io sono Achille Corea e questo è Giro di Vita, il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato un nuovo inizio, e oggi parliamo di quelli che lo stanno per fare, che però in effetti magari non l'hanno deciso l'altro ieri. Ce lo faremo raccontare da loro o da voi. Se volete telefonarci all'800 24 00 24 o lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook che trovate cercando Giro di Vita. Noi oggi cominciamo sentendo Andrea. Pronto? Ciao Achille. Andrea, benvenuto. Tu hai già la data? Sì, 17 agosto. 17 agosto, quindi dietro l'angolo. E partiamo dalla tua vita presente. Che cosa hai fatto finora? Finora sono stato un promotore finanziario, l'ho fatto per 15 anni. E andava bene? Benissimo, sì, sì. Ho fatto delle buone scelte, pochi clienti con buoni patrimoni, quindi mi piaceva molto il lavoro che facevo, sì. Ecco, e che cosa farai il 17 agosto? Il 17 partiamo, io, mia moglie e 2 figli. In realtà è una data soltanto quella di partenza, perché molte cose sono già pronte. C'è già la posata, c'è già gente che ci aspetta, anzi sono in attesa di poter completare tutta la parte di ristrutturazione, quindi abbiamo architetti che ci aspettano, l'avvocato, il commercialista, insomma verranno tutti in aeroporto a prenderci, perché abbiamo tempi abbastanza stretti, vorremmo aprire per la fine di novembre. E che cosa aprite quindi, spiegamelo bene? Una posata è, diciamo, la classica attività ricettiva brasiliana. Quindi in Brasile dove? A Florianopolis. Che sembra un posto da non lo so, da Pandora, Paperinia. Che, dov'è Florianopolis? Io, diccelo per quelli come me, poco conoscitori del Brasile. Florianopolis è a circa 900 km a sud di San Paolo ed è la capitale dello stato di Santa Catarina. Santa Catarina è lo stato più ricco del Brasile, c'è poca disoccupazione, c'è un reddito pro capite abbastanza elevato, insomma c'è lavoro, non c'è delinquenza, e dici bene, anche a noi quando abbiamo sentito questo nome per la prima volta ci ha incuriosito molto, l'abbiamo cercato su internet, poi era già tanto tempo che avevamo questo desiderio di rompere la monotonia, cambiare vita, e i viaggi che poi abbiamo fatto da più o meno maggio-giugno dello scorso anno sono stati via via chiarificatori, quindi noi ci siamo detti questo può essere davvero il posto dove cambiare vita come insomma sognavamo da tanto tempo. Ma scusa, quante volte ci sei stato? Perché sembra un posto talmente bello che non so, quanto l'hai verificato? Ci sono stato 8 volte. Beh, insomma, comincia ad essere. La prima volta quando ci sono stato in direi giugno del 2009 eravamo già andati con l'idea di cercare già una posata, quindi di verificare il mercato immobiliare, i costi, la possibilità che ci fosse effettivamente turismo per una buona parte della stagione, perché Santa Catarina, che è così a sud nel Brasile, non ha i 40 gradi che si trovano a Salvador, a Recife, a Fortaleza, quindi è una in questo momento ci sono 7 gradi, 8 gradi, qualche giorno fa nell'interno ha nevicato, quindi insomma è un tipo di Brasile completamente fuori dallo stereotipo che noi abbiamo, e questa è stata anche un po' la cosa che ci ha incuriosito, quindi siamo tornati ancora parecchie volte e abbiamo trovato effettivamente noi diciamo di andare in Europa, in realtà in Europa, però con i vantaggi del Brasile, quindi 180 chilometri di costa, spiagge, persone che affrontano la vita in un modo sicuramente più spensierato di come lo stiamo facendo noi oggi in Italia e in Europa, quindi è stato Andrea, un po' crescendo, sembra quasi che il destino abbia chiamato e noi abbiamo risposto, però abbiamo 2 figli, queste cose non si possono fare a cuor leggero, quindi abbiamo controllato, verificato, come dicevi tu all'inizio, abbiamo fatto i conti, quindi i margini di rischio li abbiamo tentato valutati. Senti Andrea, io dopo 5 settimane di programma penso di essere diventato abbastanza bravo a prevedere le domande, non è che sono quelle che arrivano. Cominciamo, quanti soldi ci vogliono? Guarda, noi siamo partiti pensando di investire 200.000 euro e quindi fare una cosa tra di noi, io e mia moglie, e comprare quindi questi 3-4 chalet. Poi parlando con amici, conoscenti, insomma la cosa è diventata molto più grande perché abbiamo raccolto un po' i desideri di altre persone che desideravano fare un investimento in Brasile ma non sapevano a chi dare soldi, come poterli gestire, quindi alla fine quello che noi abbiamo messo in piedi è qualcosa che prevede un investimento che si aggira tra il milione e il milione e mezzo di euro, quindi in quanti è una, siete? Una cosa abbastanza impegnativa. In quanti siete? Siamo in 9-10. Cosa avete fatto, diciamo, per cosa avete lasciato alle spalle? Vi siete venduti le case, lavori, liquidazioni? Sì, quello che hai detto, case, lavori, liquidazioni, sì. Tutte queste cose non le abbiamo più. Ora la domanda che arriva di solito è c'è qualcosa sotto alle spalle? C'avete dei soldi di famiglia? Siete ricchi e annoiati? Tornando troverete possedimenti che vi aspetteranno? Terreni da ereditare? No, niente proprio, guarda. Noi siamo partiti io da Termoli, mia moglie da Crotone per andare a fare l'università a Bologna e l'abbiamo fatta senza soldi, insomma, abbiamo iniziato come tantissimi studenti, poi sono andate bene le nostre attività lavorative, ma per bene intendo che i 200.000 euro che abbiamo messo da parte sono quelli che sono stati realizzati un po' dalla chiusura del lavoro e dalla vendita della casa, e tornando in Italia non troviamo niente di particolare. Che cos'è che vi spinge? Cioè, qual è il proprio adesso? Lascia stare, cioè, il posto come tu lo descrivi è una cosa meravigliosa, sembra Fantasylandia, un telefilm degli anni 80. E che cos'è però la cosa che vi ha stimolato al cambiamento nel profondo? Nel profondo, forse dopo la nascita dei figli, con il secondo figlio, il pensiero che questa Italia, che l'Italia di oggi non possa dare loro un futuro come quello che magari abbiamo avuto noi che siamo nati negli anni 70. Il Brasile oggi è un paese dove stanno arrivando tanti investimenti, sembra davvero l'Italia degli anni 60, cioè molta voglia di fare, quindi poi effettivamente vedi, questa è stata forse la molla, no? la spinta finale, però anche il fatto di aver trovato per esempio questo fantastico gruppo di soci che alla fine ci hanno dato, oltre che forza morale, anche forza economica, il fatto che comunque i mondiali nel 2014, le Olimpiadi nel 2016 per il Brasile, ma anche l'energia che trovi andando e avendo rapporti con queste persone, è di tutto un po', insomma, non c'è stato un solo motivo scatenante, ma una serie di cose. Poi dicevo prima, sembra quasi che il destino si sia messo, ci abbia messo lo zampino e abbia fatto in modo che tutto in questo anno si incastrasse al meglio. Senti, ti faccio una domanda antipatica. Il mondo è pieno di posti che 20 anni fa erano stupendi e poi sono arrivati i turisti, il cemento, eccetera. Non avete un po' paura che questo paradiso col tempo si vada, non lo so, banalizzando, erodendo? Guarda, questo è un altro dei motivi per cui andiamo a Florianopolis. Il 65% dell'isola è protetta, quindi si chiama area di preservazione permanente, non si può più costruire. C'è un piano regolatore che fa invidia ai migliori piani regolatori italiani, quindi non si costruisce vicino alla spiaggia, non si costruisce case più alte di due piani dove c'è la possibilità ancora di farlo, e Florianopoli sta diventando per il Brasile il punto di riferimento dei, diciamo, dei brasiliani benestanti. C'è uno sviluppo della, diciamo, del turismo ecosostenibile che veramente è meraviglioso, quindi andiamo lì anche con l'idea di strutturare una posada che non abbia soltanto la voglia, diciamo, di ricevere clienti che desiderano andare al mare, ma anche quelli che vogliono visitare questa amata atlantica veramente selvaggia, molto bella. C'è un lago grandissimo, sport, parapendio, deltaplano, insomma, guarda, c'è veramente di tutto. Di tutto, cioè, già stai promuovendo, cioè, secondo me un po' di gente comincia a prenotare. Quanto tempo vi siete dati per andare a regime, per capire se funziona? 3-5 anni, non si torna prima di 3 anni e sì, 5 probabilmente saranno gli anni sufficienti e necessari per capire se siamo stati bravi. Va bene, Andrea, l'ultima domanda è quella rituale. La valigia e la zavorra. Allora, in questa valigia che stai ancora chiudendo, che cose ci metti della tua vita passata? Ora abbiamo fatto un container pieno di libri. Ci abbiamo messo la cameretta dei bimbi, giusto per dare un po' di continuità a loro, la trovano la stessa che c'era a Bologna, la troveranno lì a Florianopoli. Il cane, abbiamo un cane che si chiama Gulliver, e poi abbiamo un grande sostegno, amici, parenti, insomma gente che dice: avete fatto la cosa giusta, noi siamo con voi, quindi ce li portiamo, queste cose le portiamo e con noi. E che cosa pensi che butterai via? Abbiamo già buttato sciarpe, cappelli di lana, abbiamo regalato gli sci. Poi sentivo l'altro giorno quel ragazzo che diceva del pinguino, no? Anche noi, io e mia moglie eravamo due pinguini, col tagliere e con la giacca e la cravatta, quindi abbiamo buttato queste cose, speriamo anche di aver buttato una vita dove spesso non sei tu a decidere le cose. Va bene, Andrea, noi ti ringraziamo, in bocca al lupo, la partenza è prossima e speriamo che vada bene. Giro di vita. Questa scelta di vita risulta poco credibile se ogni estate promettete: a settembre mi metto a dieta, e ogni settembre dite: ma ormai dopo Natale. Se volete far ridere i vostri amici, vi basta dire: il mese prossimo mi iscrivo in palestra. La prima volta che avete detto: mollo tutto e vado in America, il presidente era Ronald Reagan. Progettate nei minimi dettagli una nuova vita a Santo Domingo, ma il vostro spagnolo si limita a la cuenta, por favor. Vi sentite pronti a lasciare ogni cosa, ma come dormite nel vostro letto? E no, dovete fare come Andrea, dovete pensarci, progettarci e partire, non fare mesi e mesi, anni e anni di vaghi sogni senza mai un conto, senza mai una verifica, ma oppure fatelo, però è un passatempo, è un modo per scaricarsi un po' e difficilmente si va da qualche parte. 800 24 00 24, questo è il nostro numero di telefono, se volete raccontarci il vostro piano B, la scelta di vita, il cambio di vita che state per compiere, oppure su Facebook commentateci alla pagina di Giro di Vita. E se lo facessi io? E questo a Giro di Vita è invece il momento centrale in cui noi andiamo a parlare con qualcuno che di queste storie ne sente parecchie, ne vede parecchie e magari ci può dare uno sguardo esterno su questa situazione. Oggi è Monica Rubele, benvenuta. Buon pomeriggio, ciao. Allora, Monica è una giornalista, anche un volto televisivo, si occupa di Sereno Variabile, che è un programma insomma che ci fa vedere anche tante bellezze vicine a noi, però noi abbiamo scoperto che collabora anche a un sito che si chiama Voglio Vivere Così, in cui invece ci sono tantissimi utenti che raccontano e dialogano sul cambiare vita e andare spesso dall'altra parte del mondo. Come è nato questo tuo impegno? Ma è nato affiancando la persona molto fantasiosa, un sognatore che ha inventato questo sito 3 anni fa, Alessandro Castagna, e l'ha inventato perché si è trovato improvvisamente con 3 amici sul punto di cambiare vita, 2 per lavoro, nel senso cercando un lavoro diverso, e 1 per amore, perché l'amore è anche una forte molla che spinge diversi single che magari incontrano una persona di un paese lontano a trasferirsi. E quindi è nato come un sito di contenuti sostanzialmente. Raccogliamo sotto forma di interviste testimonianze di chi ce l'ha fatta, quindi speriamo che anche Andrea dal Brasile ci racconti la sua nuova vita quando si sarà sistemato. Ecco, io ho visto che oltre alle interviste e ai racconti di chi ce l'ha fatto, c'è anche un affollato forum in cui molta gente si confronta e ci sono tante persone che ne parlano prima e che insomma la vedono anche più come una fantasia irrealizzabile. C'è anche questo tipo di utenza, di chi ne parla per anni e poi non lo fa, e se sì, qual è il motivo, diciamo, più frequente? Ma guarda, io credo che in questo momento chi ci ascolta sdraiato al sole in vacanza stia pensando almeno una volta in una giornata: ma chi me la fa fare di tornare nella mia vita di tutti i giorni, no? Quindi arrabbiandomi con il traffico la mattina. È un pensiero ricorrente che ci aiuta anche molte volte a vivere in realtà la vita poi che non riusciamo a cambiare, però c'è chi questo coraggio ce l'ha. Ogni anno 40.000 italiani vanno a vivere all'estero, quindi c'è chi veramente riesce a fare questa grande trasformazione di vita, una trasformazione interiore prima ancora che uno spostamento geografico. Però ecco, il sito è secondo noi interessante anche proprio come confronto, perché chi è sul punto di può trovare delle testimonianze, può trovare anche un conforto. C'è anche qualcuno che vi racconta di delusioni, cioè di una vita che non è quella che ci si immagina prima? Qualcuno ti dirò che fanno fatica a raccontarcelo, perché è proprio una sconfitta di vita, nel senso che, ripeto, è davvero un cambiamento ancor prima personale, esistenziale, perché si arriva in un punto della vita in cui, l'ha detto Andrea, lascio una vita con schemi, ha detto una cosa del genere, che hanno deciso altri, no? È proprio un dire, un alzarsi una mattina e dire: ok, basta, adesso io vivo come voglio veramente, indipendentemente da quello che una società mi ha detto che sia bene fare, i genitori. È proprio un liberarsi, un cercare una vita più a misura delle proprie esigenze, del proprio carattere. E quindi chi poi, per un motivo o per l'altro, non riesce a realizzare questo sogno, difficilmente ce lo racconta. Però capita, soprattutto appunto anche nel confronto, nelle mail che arrivano, capita qualcuno che anche ironicamente ci dice: magari avevo un bello stipendio fisso, una vita monotona, ho ristaurato la casa dei miei genitori in montagna per aprire un bed and breakfast, risultato è andata male e adesso mia moglie che mi mantiene, viva la vita monotona. Ecco, questa è chi sì, non ci ce sono, l'ha fatta. C'è sempre il rovescio della medaglia. E ti chiederei un'ultima cosa: quali sono i posti più ambiti nei sogni degli italiani che voi osservate tranne il vostro sito, e quali sono i posti in cui alla fine ci sono più storie di successo, in cui ci si trova meglio? Sicuramente il Brasile, molto amato dagli italiani, anche il Messico, la zona di Playa del Carmen, in Kenya, a Malindi e dintorni c'è una forte comunità, sono circa 10.000 gli italiani, perché poi è anche importante trovare dei connazionali in loco. La Repubblica Dominicana, e in Europa, nonostante stia soffrendo di una forte crisi economica, la Spagna, città come Barcellona o anche le isole vanno ancora forte, sempre una grande attenzione, sì. Va bene. E anche la Nuova Zelanda, perché è considerato un paese un po' come la frontiera, il sogno americano di un tempo, cioè dove ci sono molte cose da costruire. Nuova Zelanda è da tenere d'occhio. Benissimo, grazie Monica. Ricordiamo anche il sito www.vogliovivereconsi.it. Vado al Messico, voglio andare a vedere. eccolo il Messico, citato anche da Monica Rubele. Voglio proprio vedere se, come dice il droghiere, laggiù a tutti va a gonfie vele. È veramente così? È veramente, insomma, c'è quello che uno si aspetta dall'altra parte del mondo in questi viaggi che uno progetta anche con grande attenzione? C'è un libro, noi abbiamo intervistato proprio in una delle prime puntate l'autore, che è Simone Perotti, un libro di grande successo che si chiama Adesso Basta, e tutta una parte di quel libro è dedicata alle tabelle che bisogna fare negli anni e nei mesi prima della partenza, per vedere quanti soldi ci vogliono, come si possono risparmiare questi soldi. Insomma, è anche un lavoraccio, una faticaccia, altro che me ne vado, mollo tutto, scappo. A volte, insomma, non è per niente facile. Chiediamo un po' a che punto è e come vanno queste tabelle, questi progetti, a Maria Nazarin. Io spero di dirlo bene. Pronto, Maria? Ciao, buonasera a tutti. Benvenuta a Giro di Vita. Qual è il tuo progetto? Qual è il tuo piano B? Ma il nostro progetto è di andare a spostarci proprio in Nuova Zelanda, per cui stiamo lavorando per raggiungere la nostra meta, il nostro sogno. E cosa fa? Intanto, se l'ho capito male, siete in due. Sì, io e il mio compagno. Ecco, quindi non da sola, ma tipo, insomma, un cambiamento in coppia, che poi spesso è una domanda che ci fanno, ci dicono un'osservazione, una critica: ah, ma questi cambiamenti si possono fare da soli. E che cosa fate qui e che cosa andrete a fare lì? Ma io ho un piccolo albergo a Roma, il mio compagno è un fiscalista, per cui tutti e due sogniamo di spostarci in Nuova Zelanda e aprire un lodge e ospitare magari italiani che verranno in Nuova Zelanda in vacanza, come noi abbiamo fatto, per cui siamo stati ospiti di questi lodge in giro per la Nuova Zelanda, ce ne siamo innamorati, ma era un mio sogno e un nostro sogno che ci portiamo da bambini, per cui ci siamo trovati con lo stesso sogno e cerchiamo di realizzarlo finalmente. Senti, questo vostro, diciamo, cambiamento di certo non ha quella stranezza che in molti casi si sente, che fa venire voglia di dire: ma come farete a inventarvi un altro lavoro se poi non lo sapete fare? Però voi andrete a fare più o meno lo stesso lavoro, perché sì, a questo punto è solo ma il posto? La scelta è più facile, prima di tutto perché il nostro lavoro ci piace fondamentalmente, però in Italia è tutto complicato, è un paese lento e noi siamo molto veloci, questa velocità si trasforma in stress qui in Italia, invece vorremmo che restasse una cosa eccitante che ti permetta di vivere al massimo la vita in un modo felice. Certamente non sarà il paradiso neppure lì, ma forse probabilmente sarà più facile viverla questa vita. E quindi portiamo lì i nostri lavori e in un modo che ci sembra molto più facile e fatto con molta più soddisfazione. E, da quanto è che ci pensate e qual è più o meno il vostro punto di arrivo come data? Io ci penso da quando sono nata, perché è nata probabilmente prima la Nuova Zelanda e poi io, ho sempre avuto Beh, quello di sicuro sogno. Adesso non è nata prima la Nuova Zelanda. In me, sì, però dentro di me c'è sempre stato questo sogno della Nuova Zelanda, che e quando siamo potuti andarci abbiamo ritrovato questo sogno molto reale, per cui è un paese stupendo, una vita molto, molto più facile, gente simpatica, pochi problemi e quindi c'è... Avremmo dovuto già farlo il grande passo, però per dei problemi di salute così abbiamo dovuto rimandare, per cui entro un anno vorremmo realizzarlo. Senti, ma quante volte ci siete stati in Nuova Zelanda? Siamo stati una sola volta per un mese, l'abbiamo girata tutta, però siamo informatissimi su tutto e quindi siamo in contatto con degli amici lì e quindi siamo... abbastanza preparati. Non ve la siete fatti una lista di possibili problemi, di controindicazioni? Ma guarda, per quanto abbiamo cercato di prevedere i problemi, non sono mai prevedibili fino a quando non li vivi e io credo che non sono mai giganteschi come quelli che vivi in Italia, per cui siamo pronti a tutto, ma siamo anche vaccinati. Va bene, allora in bocca al lupo anche a te, Maria, a te e al tuo compagno per la partenza in Nuova Zelanda. Io volevo anche dire che Maria, tra l'altro, si è autocandidata, diciamolo, da Facebook e ci segue dalla prima puntata e ci ha fatto molto piacere sentirla, ed è un invito che faccio anche a voi di raccontarci e proporci le vostre storie da Facebook o, se non ce l'avete, da Giro di Vita @radio24.it. Precisazione, prima ho sbagliato, e voglio vivere così.com. E ho detto .it, ma dai, lo trovate lo stesso. Vittorio, pronto? Sì, ciao. Vittorio, dove vai? Sto pianificando come l'ascoltatrice di prima, solo che sto vagliando più offerte, diciamo, di cambiamenti, dall'America all'Australia all'est asiatico. E perché te ne vai? Cioè, mi sembra che quello allora sia il punto. Perché te ne vai? Perché in Italia ha ragione l'ascoltatrice di prima, siamo lenti, io ho voglia di cambiare, ho voglia di trovare alternative, qui le mie esperienze le ho avute. Che lavoro fai e che lavoro faresti? Sono un agente di commercio da 20 anni, e appunto perché sto pianificando ho fatto il corso per diventare sommelier. Ah, ecco. E sono attualmente sommelier. E quindi un lavoro che si può fare più o meno ovunque, dici? Eh sì, ho abbinato una delle eccellenze italiane con la passione, con la possibilità di lavoro che può esserci all'estero. Quindi diciamo venderai, ma venderai vini? Sì, vorrei vendere il vino italiano all'estero. Vabbè, che tempi ti dai? Ma guarda, io avrò un primo viaggio esplorativo, diciamo, in America a ottobre. Dopodiché a gennaio deciderò il da farsi, se sarà est asiatico o se sarà appunto l'America. Quindi parti, parti di green sicuro. Green card, cose varie, è un po' difficile riuscire a battere la burocrazia anche estera. Non siamo solo in Italia burocratici. No, ma infatti no, non dipingiamo gli altri come se fossero, insomma, dei paradisi in cui arrivi e ti spalancano le porte. Vittorio, grazie, noi siamo in chiusura. Questo era il nostro giro di vita di oggi, il giro di vita di chi lo sta per fare. Se la cosa vi ha stimolato, scriveteci, chiamateci alla segreteria telefonica che sentite durante la sigla. Noi torniamo domani. Ringrazio Alessandro Cappini, Fabrizio Intonti che sta sempre con me, e statemi bene. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.